Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Nell'animo l'idea, sì, vado su, ma forse non me lo fanno perché sei combattuto dentro. Da una parte lo vuoi fare, ma dall'altro sei un essere umano e hai paura dell'operazione. Alla domanda se non lo faccio ho alternative, la risposta è no. L'unica cosa che mi resta da dire è dove devo firmare. Storie di nascituri tra piante e piante autoctone in una puntata che si intitola Perseverare e proliferare. Voglio andare al punto del problema. Perché siamo qui stamattina? Esiste un gap, una divaricazione sempre più ampia tra pazienti che potrebbero essere guariti con un trapianto e possibilità di farlo questo trapianto. Allora Cristina, ci abbiamo gli esami? Sì, sì. E il primo intervento lo fece nel 94, vero? Visto che peggiorava, okay, la situazione. E come è andato? Male, perché stavo peggio. Nel 2005, altro intervento, perché stavo peggio, abbiamo peggiorato ulteriormente. Cosa succede? Succede che noi riceviamo telefonate la mattina di pazienti che non conosciamo, che chiamano ovunque, e ci chiedono: io ho bisogno di un trapianto, quando posso venire a farlo? La voce che avete sentito è quella del professor Antonio Daniele Pinna, che è un luminare dei trapianti in un programma di una decina d'anni fa che andava in onda su, qui in Italia, su Fox, che si chiamava Destini Incrociati, esattamente come un antico, però bellissimo programma di Radio 24 di qualche anno fa. E il protagonista però appunto in quel caso era il professor Pinna, che lavorava al Sant'Orsola di Bologna ed è tornato, ho scoperto, l'anno scorso a lavorare al Sant'Orsola di Bologna dopo aver fatto un'esperienza ad Abu Dhabi. Il professor Pinna è un luminare assoluto dei trapianti, ha vissuto e ha insegnato per anni nelle università americane, è una eccellenza assoluta di questo paese. E in questo programma, che appunto ormai era del 2010, quindi 10 anni fa, lui veniva seguito dalle telecamere durante quello che era tutto l'iter di un trapianto di fegato in questo caso. Vi abbiamo fatto sentire questo pezzo perché oggi abbiamo una puntata che racconta storie che in parte hanno a che fare ancora con i trapianti, anche se la scorsa settimana o due settimane fa abbiamo raccontato la storia dal punto di vista del donatore, o meglio della storia di un donatore. Oggi invece sentiremo la storia da un punto di vista del protagonista, che è un ricevente, perché in questa puntata, vi dicevo, che si intitola Perseverare e proliferare, vi raccontiamo una serie di storie che vanno da un nonno che si trova con un nipote in arrivo in difficoltà, passa attraverso un ricevente di una donazione e arriva fino a delle piante che viaggiano attraverso gli oceani, viaggiano attraverso i deserti e proliferano e diventano nuove piante di quella zona del mondo, anche se in quella zona del mondo non ci sono mai state. Come lo facciamo? Come sempre, attraverso delle storie. Vi raccontiamo storie qui a Linee d'Ombra tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. Storie che hanno a che fare con un confine, con un passaggio, una linea che è stata varcata, proprio come in questo caso, da un piccolo nipote appena nato, da un uomo che riceve un dono o da una pianta che viaggia. Vi racconteremo delle storie che si trovano in questo bellissimo libro del botanico italiano che si chiama Stefano Mancuso. Il libro si chiama, magari lo conoscete o l'avete avuto per le mani, si chiama L'incredibile viaggio delle piante, pubblicato in Italia dalla Terza. Insomma, un gruppetto di storie così, rilasciate in un'ora per provare a farvi viaggiare oltre al luogo in cui vi trovate mentre ci ascoltate, che sia in diretta o che sia in podcast, comunque sia. E poi chiudiamo come sempre con la splendida storia di Antonio Cocco, questo giovane uomo che un giorno parte, lascia casa sua, lascia Venezia e si ritrova nella regione straniera, e da lì comincia un viaggio piuttosto tortuoso, piuttosto rocambolesco, ma davvero verso il cuore dell'abisso. Insomma, piano piano vi raccontiamo tutte le storie. Voi dovete solo fare una cosa: se avete voglia di condividere la vostra storia, mandarcela a lineedombra@radio24.it, oppure semplicemente mettetevi comodi e cominciare ad ascoltare. Benvenuti a Linee d'Ombra. Credo che diventare nonni sia un'esperienza unica, in special modo se la nuova vita nasce da tua figlia. Siamo quasi alla fine di gennaio, mancano ormai pochi giorni alla data presunta del parto. La pelle che avvolge il grembo dove tuo nipote sta crescendo ormai da 9 mesi è tesa come solo la pelle del tamburo può essere. Si vede ogni piccolo movimento, bozzi continui che interrompono la sfericità. Ogni ora, ogni momento, aspettiamo la telefonata. Eh sì, nostra figlia è a circa 2 ore di macchina da noi e mia moglie ha pronta anche lei la valigia, come se fosse lei la puerpera. Un altro giorno passa, arriva il pomeriggio e arriva la telefonata. Sono in ospedale, ma ci vorrà un po', ci dice. Le ore passano, ormai andiamo a letto e poco prima di mezzanotte arriva l'altra telefonata. Dall'altra parte mia figlia piange. Mia moglie chiede il perché, il suo respiro è pesante. Arriva anche nostro figlio, che dormiva nell'altra stanza, e domanda, chiede che cosa stia succedendo. Il bambino ha avuto dei problemi al parto e lo stanno rianimando. Mia figlia continua a piangere, mia moglie e mio figlio vogliono partire, la telefonata si interrompe. Io sono impietrito, non riesco a realizzare, ma sono 1000 pensieri che scorrono veloci nella testa. Cerco di fare stare calma la famiglia, di farli ragionare. Cosa andiamo a fare, dico? L'ospedale è chiuso, non ci fanno entrare. Anche se andiamo in albergo, cosa facciamo? Riusciremo a riposare? No, e allora facciamo che partiamo presto domattina e saremo lì alle 7. Saranno passati 10 minuti che richiama nostra figlia. Non sa come sta il bambino, ma il papà è con lui. Sono tutti e due in terapia intensiva neonatale. In casa è calato il silenzio, ognuno è chiuso nei propri pensieri e ogni tanto parliamo per scacciare il pensiero negativo che ti prende. Passa qualche ora. Ormai siamo pronti per percorrere quei chilometri che ci separano dal vedere nostra figlia, nostro genero e magari nostro nipote. Sta sorgendo il sole, è una bella giornata. La nebbiolina si è cristallizzata sui prati che costeggiano l'autostrada. Arriviamo puntuali. Entriamo spaesati in ospedale, chiediamo e raggiungiamo nostra figlia. Un abbraccio forte, caldo e quelle lacrime che ti devi tenere dentro. Esco, lascio mia moglie con mia figlia. Le donne sanno parlarsi molto di più tra di loro. Mi fermo in corridoio e penso e non riesco a capacitarmi. Rientro e mi dicono che il bambino non sta respirando autonomamente, che il papà è sempre stato accanto a lui. Volete vederlo? Ci chiede nostra figlia. Potete andare, tanto la strada la conoscete. Sì, c'eravamo già stati, una volta, perché nostra figlia è infermiera proprio lì, dove c'è suo figlio ora, terapia intensiva neonatale. Suoniamo, entriamo nella bussola e ci accomodiamo in una stanza. Ci raggiunge il papà, è provato, è stanco, accompagna mia moglie, poi mio figlio, e ora tocca a me. Lo vedo immobile, con il ventre che si solleva piano piano, la benda sugli occhi e tante canule. 2 minuti. Esco, non parlo. Andiamo da nostra figlia. L'abbraccio, la saluto, abbraccio mia moglie che resterà qualche giorno e io riprendo la strada di casa. Il ritorno sembra lungo, le macchine ti superano e la tua testa continua a macinare pensieri e lasciano spazio poi alle lacrime. I giorni successivi i parametri cominciano a migliorare, è ancora in sedazione ma reagisce. Mia figlia farà qualche giorno casa ospedale per l'allattamento e finalmente arriva il grande momento. Tornano tutti nella loro casa. Nel weekend andiamo a trovarli e dopo 2 settimane vengono loro da noi per qualche giorno, ma devono fare in fretta i bagagli e tornare perché c'è aria di chiusura delle province. Il Covid ha cominciato a farsi sentire e ci saremmo rivisti il 3 di giugno. In questi mesi l'abbiamo visto crescere. Sta bene, mangia ed è uguale a sua madre. Non dorme mai. Ma va bene così, che mantenga l'energia che lo tiene sveglio e che si traduca in vitalità. There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know. The gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engine won't just won't turn and the train won't leave. I will stay with you tonight, hold you close till the morning light. In the morning watch the new day rise. We'll do whatever just to stay. Due piccole ma enormi storie diverse, dopo la storia che abbiamo raccontato di questo nonno, in una puntata che si intitola Perseverare e Proliferare, ve ne raccontiamo un'altra che sembra la storia speculare di una storia che abbiamo raccontato una settimana fa, 10 giorni fa, di un trapianto di cuore, solo che in quella storia, che era raccontata dal punto di vista della sorella, del donatore, c'era appunto la parte di chi dona, anche se lei poi lavorava con i trapianti, quindi ci ha dato un panorama più completo del tutto. In questa storia, invece, è proprio la parte diversa, è la parte di chi riceve. Un giorno dopo che ti sei svegliato con una pancia da fare paura per un ascesso addominale e avere fatto le prime visite, un dottore ti dice: lei è in cirrosi, solo un trapianto la può salvare. Si cerca un ospedale specializzato per i trapianti e poi si cominciano a fare tutte le visite pre-trapianto che durano almeno 15 giorni, con il terrore che oltre alla malattia epatica possano scoprire qualche altra cosa che renda impossibile il trapianto, come diabete, problemi al cuore, ai polmoni o ai reni. Che cosa significa, una volta fatte tutte le visite, essere messo in lista d'attesa? Cosa crede, che io metto pezzi di ricambio? Sai bene che chi dice queste parole sa il fatto suo. Il trapianto non è una sciocchezza, lei ci può restare, potrebbe non uscire vivo dalla sala operatoria. Insomma, non vi dico come ci si sente. E poi alla domanda: ma se non lo faccio ho altre alternative? La risposta secca: no, non ce ne sono altre. E l'unica cosa che mi resta da dire è: dove devo firmare? Mi avevano chiamato 15 giorni prima, quindi io abito a Savona e il trapianto l'ho fatto a Verona, quindi tutto assieme mi hanno chiamato, mi hanno detto: c'è un fegato disponibile, se lei è disponibile e sta bene può venire su. Quindi questo 15 giorni prima, quindi avevo le palpitazioni a 1000, abbiamo chiamato la Croce Rossa perché eravamo già organizzati con il trasferimento e abbiamo fatto sto viaggio incredibile su a Verona. E poi sono andato nella sala d'attesa, mi hanno fatto i prelievi e poi aspetta, ma non mi chiamavano mai. E quindi ero nel dubbio, la paura del trapianto e la paura di non farlo. Poi l'attesa. L'attesa per la telefonata, stando attenti ad avere il telefono sempre vicino. Passano i mesi, 9, e alla fine un'infermiera del centro trapianti ti chiama. Come sta? Cosa sta facendo? Venga. Abbiamo un dono per lei. E poi la corsa in ambulanza con un angelo alla guida che vola verso Verona a sirene spiegate. La notte in compagnia di tua moglie, soli in una stanza ad aspettare, attento ad ogni rumore. Con la paura di non farlo quel trapianto, per qualcosa che non è andato bene nella donazione magari, ma anche con la paura di farlo quel trapianto, perché potresti non uscirne. In fondo ti è già successo, la settimana prima, e nel cuore hai ancora quella terribile delusione. Poi, finalmente, dopo che hai visto sull'orologio passare tante ore della notte, arrivano per portarti in sala. Ti spogli e infili queste calze. Il chirurgo l'aspetta. Segue la tremenda paura nel passaggio dal corridoio dello sporco a quello del pulito che dà direttamente nella sala. Un ultimo saluto a tua moglie. Un bacio. Non sai se la rivedrai. Momenti tremendi di paura e di grande speranza. 1000 pensieri per la testa. Poi la paura. La stanza con tanta luce, con tante persone, con i camici diversamente colorati. Arriva l'anestesista, fa delle domande, rispondi. Conti 1, 2, 3. Poi il sonno. Ecco, questo è un pezzo della mia storia. Adesso so che abbiamo vissuto una cosa tremenda e bellissima allo stesso tempo. È il racconto della mia rinascita. Makes me lighter, fearless, blind. Perseverare e proliferare, si intitola la puntata di oggi. Avete sentito due storie, le abbiamo raccontato, la prima quella di un nonno che aveva a che fare con un nipote appena nato in difficoltà, che però poi appunto perseverando ce l'ha fatta, ora sta bene, e la seconda invece è la storia di Giuseppe, che ha perseverato a lungo in attesa di un trapianto che lo potesse far tornare in qualche modo a una vita normale. Pronto, ciao Giuseppe, buongiorno. Ciao, buongiorno. Giuseppe, innanzitutto la prima cosa è, si ritorna a una vita totalmente normale dopo un trapianto come il tuo? Sì, direi di sì. A parte qualche visita, ma la vista è normale. Si può fare sport, si può fare... Logicamente si sta attenti un po' al mangiare, ma la vita è normale. Senti, come eri arrivato? Avevi avuto dei problemi di salute molto gravi per necessitare di un trapianto? All'inizio avevo fatto un'epatite al tempo del militare, un'epatite Okay. Poi con le vicissitudini della vita è peggiorata e poi sono arrivata a un'età che insomma era necessario. Alt, mi arrendo. Ok, ti ha mandato dei messaggi molto chiari, insomma. Sì. Senti, quanto hai aspettato? Dalle visite di controllo, diciamo che mi hanno messo in lista 9 mesi. Mesi esatti, un parto come... praticamente. Sì, un parto, infatti l'abbiamo detto con mia moglie, un parto è stato. Senti, tu a un certo punto dici che ti era capitato già una volta di aver aspettato in vano, cioè, cos'era accaduto? No, mi avevano chiamato 15 giorni prima, mi avevano telefonato a casa perché io abito a Savona e il trapianto era a Verona, per cui mi hanno chiamato, mi hanno detto c'è un fegato disponibile, se lei sta bene può venire. Quindi abbiamo preso la Croce Rossa perché è tutto contattato, organizzato. Non puoi prendere un taxi e andare, insomma. Più o meno. Quando poi sono stato lì a Verona, dopo aver fatto le analisi del sangue e iniziato la procedura, tutto assieme hanno detto no, alt, perché l'organo non è... abbiamo visto che ci sono dei problemi, per cui non lo inseriamo. Era il fegato in sé che aveva dei problemi, non c'era un problema di compatibilità? No, la compatibilità c'era. Poi se no, okay. Quando lo guardano bene, lo analizzano, certo, insomma, aveva qualcosa che non andava. Senti, che cosa si prova quando ci si risveglia dopo l'operazione? Beh, si ci risveglia dopo un giorno e mezzo, perché si sta poi nel reparto di terapia intensiva, però non lo so, perché si resta un po' addormentati, si resta un po', ma poi vedi che gli altri ti guardano, vedi che ci sono i sorrisi, quindi capisci che la cosa è andata bene, ecco. Ah, ok, insomma, più che altro non cercare di capire a che punto sei della tua situazione. Ma sai qualcosa del donatore? No, assolutamente niente, non dicono niente perché hanno visto che è meglio così, per vari motivi. Ah, ok, quindi semplicemente c'è l'organo e si parte. No, te lo chiedo perché la settimana scorsa, insomma 10 giorni fa, avevamo raccontato una storia che in realtà parlava di un donatore, non di un ricevente, lo raccontavamo attraverso la voce della sorella, ovviamente, che aveva seguito la cosa ed era anche medico, e ci diceva che in alcuni casi particolari si poteva conoscere i familiari, però erano trapianti di cuore, forse non so se ci siano delle dinamiche diverse. Neanche a Verona. Senti, Giuseppe, tu quindi cosa fai? Sei in pensione in questo momento della tua vita? Sì, sono in pensione da 10 anni, ma ho lavorato, ho lavorato 41 anni. No, lo immagino, non volevo fare un'illazione sul fatto che non avessi lavorato. Cosa hai fatto nella vita? Ma prima ero in una fabbrica, facevo lo saldatore, poi la fabbrica è andata... sono andato in cassa integrazione, poi sono stato assunto in comune e lavorato lì. Ok, senti, quindi quest'estate l'hai vissuta come tutti, hai fatto, vivi in Liguria? Sì, ancora di più, perché essendo un soggetto a rischio, logicamente sei stato molto, molto attento, altre precauzioni più forti. Certo, Giuseppe, ti ringrazio molto per la storia che ci hai mandato e insomma in bocca al lupo per tutto, visto che di fatto è, come dici tu, è stata una rinascita, è ricominciata praticamente... Sì, è stata una rinascita vera. Una nuova vita. Tu hai quanti anni? 68, ma insomma c'è ancora una bella vita, non è male rinascere a un certo punto, no? C'è una sensazione... una sensazione nuova. No, ma rinasci e anzi apprezzi la vita. Lo immagino. Apprezzi la vita, ma apprezzi proprio le piccole cose. Lo immagino. Grazie Giuseppe, in bocca al lupo e a presto. Grazie, grazie. Ciao, buona giornata. Grazie a Giuseppe per questa storia che ci ha raccontato, che è davvero l'altro lato della storia che abbiamo raccontato una decina di giorni fa. L'altra volta abbiamo parlato della storia del donatore, oggi abbiamo parlato della storia di un ricevente di un trapianto. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a raccontare sempre a Linea d'Ombra. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linea d'Ombra. La prossima storia che vi raccontiamo sono due piccole storie, anche in questa seconda parte di Linea d'Ombra proseguiamo con una doppia storia, e sono entrambe storie trovate in un libro magnifico che si chiama L'incredibile viaggio delle piante di Stefano Mancuso. Stefano Mancuso è un botanico che si occupa chiaramente del mondo vegetale da diverso tempo, da quando ha iniziato a studiarle le piante, e in questo libro particolarmente interessante lui racconta come le piante siano considerate statiche, ma in realtà non lo sono per nulla. In particolar modo lui ha tutta una sua visione delle piante autoctone e delle piante invasive. In sostanza dice noi chiamiamo piante invasive piante che arrivano da un altro mondo, un altro ecosistema, si piazzano in un ecosistema diverso da loro e proliferano in quell'ecosistema, e a noi non piace, per qualche motivo non ci piace, perché non sono di lì, sembrano non essere originarie da lì. E poi dice: le piante autoctone invece sono piante nostre, sono da sempre lì, ma in realtà anche le piante autoctone arrivano da un altro posto, semplicemente noi diamo per scontato che siano lì. E poi chiude dicendo: le piante invasive sono le piante autoctone del futuro. Insomma, per farlo, per spiegare questi concetti, che sono concetti che hanno a che fare con le piante, ma credo non solo, racconta due storie, e sono la storia del pomodoro e la storia del penniseto. Mettetevi comodi, sono storie bellissime. La spinta espansiva della vita non può essere contenuta, per questo è impossibile pensare di rinchiudere una specie vegetale all'interno di recinti quali orti botanici o giardini. Benché noi lo facciamo continuamente, prima o poi le piante riescono a scappare, riconquistando la possibilità di continuare la loro espansione. La maggior parte della specie, siano essi animali o vegetali, che oggi consideriamo invasive, è arrivata così, fuggendo dai luoghi in cui l'uomo riteneva possibile tenerle confinate. A voler essere precisi, non solo le specie che oggi consideriamo invasive, ma la maggioranza delle piante, che riteniamo parte del nostro ambiente da sempre, sono in effetti soltanto dei migranti di più o meno lunga data. Piante che oggi sono percepite come parte del patrimonio culturale sono soltanto delle straniere che si sono ben integrate. Pensiamo al mais, ad esempio, questo straniero proveniente dal Messico che ha sfamato il popolo padano per generazioni, o il pomodoro, ad esempio, e il basilico, piante distintive della cultura alimentare italiana. Non è forse la pasta col pomodoro e una foglia di basilico il piatto nazionale? Ebbene, il pomodoro è una specie originaria di un'area compresa tra Messico e Perù, arrivata con Hernán Cortés in Europa per la prima volta nel 1540, e non aveva ancora nulla a che fare con quello che conosciamo. Quando giunge in Italia nel 1544, il suo frutto è giallo ed è descritto nei libri come mala aurea, traslato poi comunemente in pomodoro. Per farsi accettare il pomodoro, come succede a tanti altri migranti, ne dovrà passare di tutti i colori, e nel suo caso il modo di dire tutti i colori va inteso in senso letterale. Fin quando non diventerà rosso, infatti, sarà guardato come una pianta piuttosto sospetta, perché dapprima ritenuta tossica, poi di sola utilità ornamentale, poi curativa. Solo nel 1572 si fa riferimento ad una varietà di pomodoro gagliardamente rosso, e da quel momento tutto diventa più facile. Le piante sono straordinariamente intelligenti. Se per intelligenza noi intendiamo la definizione corretta, che è la capacità di risolvere problemi, allora le piante sono straordinariamente intelligenti. E la questione è anche abbastanza immediata da pensare. Noi immaginiamo che, siccome noi siamo stati in grado, che ne so, di scrivere i fratelli Karamazov, di dipingere la Cappella Sistina, di immaginare la teoria della relatività, questo di colpo ci renda migliori degli altri esseri viventi. Ma questo non ha, da un punto di vista biologico, un senso. Lo so che sembra paradossale, dice, ma come, scrivi i fratelli Karamazov, fa Divina Commedia e non ha un senso? No. Perché il primo e più importante degli obiettivi, ciò che davvero ti fa dire sei meglio o peggio, è la capacità di propagare la specie. Cioè, se la nostra specie è in grado di propagarsi, allora tutto quello che creiamo, tutto quello che abbiamo fatto, ha un senso. Ma se ci dovessimo estinguere, per esempio, che senso avrebbe che abbiamo scritto la Divina Commedia? Tutto scomparirebbe. Una volta virato al rosso, il più è fatto, il pomodoro inizierà ad essere utilizzato per scopi alimentari, ma molto lentamente. Tanto che per avere la prima ricetta del nostro piatto nazionale, la pasta al pomodoro, dovremo aspettare la prima metà dell'Ottocento, un cammino lungo ma tutto sommato semplice, se paragonato a quello del basilico, altro baluardo dell'italianità culinaria, che in realtà è anche lui uno straniero. Proviene dalle zone interne dell'India ed è arrivato in Europa con Alessandro Magno, ma anche per lui il cammino per essere accettato non è stato facile. Al confronto il pomodoro è stato accolto a braccia aperte. Per poterlo vedere in tavola, dal 350 a.C. si è dovuto attendere il XVIII secolo. Per oltre 2000 anni questo profumato straniero ha goduto di bassa reputazione. Da Plinio il Vecchio, che lo riteneva responsabile di pazzia, fino ad un medico e botanico britannico vissuto nella prima metà del XVII secolo, che lo riteneva, né più né meno, un veleno. Ora lasciamo stare le piante alimentari. Quello che è interessante osservare è che moltissime piante che riteniamo originarie della nostra zona nativa non lo sono affatto, essendo originarie di aree spesso molto lontane. Perché quindi continuiamo a definire invasive quelle piante che con successo riescono a conquistare territori nuovi? A ben vedere, le piante invasive di oggi sono la flora nativa del futuro, così come le piante invasive del passato sono oggi parte integrante del nostro paesaggio. E una di queste piante considerate invasive, ma che è bello definire fuggitiva, è una piccola migrante abissina, conosciuta con il nome di Pennisetum cetaceum, o più comunemente penniseto. Si tratta di una graminacea perenne alta poco più di un metro che produce una spighetta piumosa e morbida. Molto bella inizialmente, di colore rosa scuro, che durante la maturazione sfuma, schiarendosi nelle varie tonalità del rosa, trasformando la pianta in una delicata sinfonia di colori. La specie è coltivata come pianta ornamentale in gran parte del mondo proprio per il suo bell'aspetto. Anzi, potremmo dire che la sua avvenenza è il cavallo di Troia attraverso il quale ha potuto espandersi dovunque le condizioni climatiche fossero consone al suo status di figlia dell'Africa subsahariana. La storia di fuga e conquista del penniseto somiglia per alcuni tratti a quella di molte piante fuggitive che sono approdate in Sicilia. Il penniseto arriva in Sicilia nel 1938 grazie all'interesse del professor Bruno, preside della facoltà di agraria, il quale, procuratosi un campione di semi, li sparge all'interno del giardino coloniale annesso all'orto botanico a Palermo e inizia a studiare le caratteristiche di crescita e riproduttive della pianta, in vista di un possibile uso come foraggio per gli animali. Le condizioni ambientali dell'Abissinia, all'epoca colonia italiana, non sono così dissimili da quelle che si trovano in Sicilia, pensa Bruno. Se si adeguasse all'isola avremmo a disposizione un'ottima pianta di foraggio, adatta ai climi caldi e aridi. Purtroppo però la specie ha una bassa capacità nutritiva, inoltre gli animali non sembrano gradirla. Svanita quindi la speranza di farne una pianta da foraggio e non essendoci più alcun interesse pratico al suo mantenimento, si decide di eliminarla dal giardino coloniale per lasciare posto a nuove sperimentazioni. Ed è qui che la sua avvenenza interviene, salvando il penniseto. Notata la bellezza della sua fioritura, i tecnici dell'orto botanico decidono di mantenerla in coltivazione e di valutarne le potenzialità come pianta ornamentale. Lo scampato pericolo è un campanello d'allarme. Il penniseto non può più tergiversare. È necessario accelerare i preparativi per la fuga dal giardino in cui si trova confinata. Se alla Sicilia non sembra interessare il penniseto, l'inverso non è vero. La pianta gradisce molto l'isola, un ambiente simile a quello in cui è nata, ma senza i nemici naturali e i competitori con cui deve vedersela quotidianamente, decide di affrettare i tempi della sua diffusione. La bellezza è sicuramente d'aiuto, ma non può bastare. Molto saggiamente sono altre le armi su cui conta per diffondersi in questo nuovo ambiente. Innanzitutto si adatta a climi diversi. Purché piova poco e la temperatura non scenda sotto lo zero, va bene tutto. La sua produzione di fiori è continua da marzo a settembre, in più resiste alla siccità e alle alte temperature ed è adattata al passaggio del fuoco. Grazie a questa abilità, dopo gli incendi, il penniseto si afferma sui terreni meglio delle dirette concorrenti siciliane. Il seme poi è un portento, in condizioni ottimali germoglia immediatamente. La produzione di semi è elevata e la disseminazione può avvenire grazie a qualunque vettore, vento, acqua, animali, uomo, veicoli, soprattutto veicoli. È grazie alle strade, infatti, grazie ai mezzi che ci transitano su quelle strade, che il penniseto conquisterà la Sicilia. Soltanto lo 0,3% di quello che è vivo sul pianeta Terra è fatto da animali. L'85% è fatto da piante. L'85 e lo 0,3% sono frutto di una scelta evolutiva che avviene 500 milioni di anni fa. 500 milioni di anni fa partivamo da un antenato comune. A un certo punto si biforca, si prendono due vie evolutive completamente diverse. Da una parte le piante che decidono di rimanere stanziali e quindi di ottenere tutta l'energia dal sole, dall'altra parte gli animali che invece decidono di muoversi per predare, quindi per consumare altri esseri viventi come utilizzati come nutrimento. Questa è la grande differenza. Allora, chi è che ha vinto in questa scelta? Non c'è nessun dubbio. Da una parte 85%, dall'altra parte 0,3%. Il primo passo però è allontanarsi dalle anguste aiuole in cui è costretto nel giardino coloniale. La fuga è un gioco da ragazzi. Una giornata ventosa è l'ideale perché migliaia e migliaia di semi piumosi e studiati per propagarsi nell'aria possano prendere il largo. Superate le mura del giardino e atterrate felicemente nelle aree abbandonate, la conquista può iniziare. Una volta fuori è solo questione di tempo. Usando le aree incolte lungo le strade, il penniseto comincia a diffondersi seguendo le principali arterie in uscita da Palermo. Esistono mappe che ne illustrano il cammino in Sicilia negli ultimi decenni ed è straordinario. L'avanzata ricalca esattamente le mappe stradali. Ogni anno la pianta si propaga, conquistando decine di chilometri, e oggi praticamente l'intera Sicilia è casa del penniseto, una specie nata in Eritrea. Si chiama globalizzazione. Esiste da sempre in botanica. Dazi, confini, barriere, in natura sono, fortunatamente, concetti privi di senso. Gardinia. In a shabby raincoat, where are you tonight? Cheap purple baby doll dress, a gardenia in your hair. Much taller and stronger than me, a forbidden dream, a dream. Ci sono queste e altre splendide storie di piante e di viaggi delle piante in questo libro scritto da Stefano Mancuso, che si chiama appunto L'incredibile viaggio delle piante, pubblicato in Italia dalla Terza. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la splendida storia, anche quella di viaggio, anche se un pochettino più cupa, che è la storia di Antonio Cocco, tra pochissimo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Le lettere ormai sono uno strumento che noi non frequentiamo quasi più, usiamo moltissimo la scrittura, ma soprattutto per messaggi su WhatsApp, tantissimo, anche per le mail. Le mail di fatto hanno una forma di lettera e rimangono, anche se digitali, nel tempo. La scrittura su carta però è diversa, perché presuppone un impegno diverso, presuppone anche la volontà di uscire di casa, di spedire, di comprare un francobollo, ed è molto diverso ricevere una lettera rispetto a qualsiasi altro consegna di messaggio digitale, lo sappiamo bene. E la storia che vi stiamo raccontando è una storia di lettere, è la storia di tutte le lettere che Antonio Cocco ha spedito a casa, in particolar modo a suo padre, alla sua famiglia, negli anni in cui fuggì dall'Italia e in maniera rocambolesca e quasi non volontaria, involontaria o contro la sua volontà, si arruolò nella Legione Straniera. Era il 1952, arrivò in Francia, da lì raggiunse Marsiglia, si arruola nella Legione Straniera e inizia tutto, prima Algeria e poi Indocina, Vietnam, guerra d'Indocina, la guerra che è stata combattuta dai francesi per difendere le loro posizioni, e le loro ridotte sono state, le loro ridotte di combattimento sono stati i punti da cui difendevano i loro terreni. Si chiama proprio Ridotta Isabel, anche la raccolta di queste lettere, che è diventata un libro pubblicato da Terre di Mezzo e curato dall'Archivio Idealistico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Ecco, vi stiamo raccontando questa storia. Nella lettera di oggi che sentirete oggi, Antonio non fa altro che scusarsi, in sostanza, che chiedere scusa ai genitori, ai fratelli, per quello che gli sta facendo patire, e qua e là racconta pezzi terribili della vita nella Legione Straniera. Per quanto riguarda la mia salute, non preoccupatevi molto. Il clima caldissimo che mi rendeva impossibile qui la vita, ora lo so sopportare. E l'asma pure incomincia a fare la brava. Non mi dà più fastidio e so fare, come gli altri, marce di chilometri e chilometri sulla sabbia, col sole a picco, oppure attraverso l'acquitrino e tra la boscaglia, carichi come muli di fucile, fucile mitragliatore, bomba a mano, borraccia piena di sabbia e aggeggi del genere. Insomma, per la salute non mi posso lagnare, perché ora comincio a mangiare tutti i più schifosi e strani cibi del luogo. Quello che proprio non so invece sopportare sono i trattamenti a cui il legionario matricola è sottoposto. I pugni, le pedate, i ceffoni sono all'ordine del giorno. Usano i metodi che i ricconi romani usavano con i loro schiavi. Ci considerano dei delinquenti e come tali siamo trattati. Tanto al sergente come al caporale è permesso bastonare come gli pare e piace, e guai a protestare. Io ne ho fatto personalmente esperienza. Avendo, durante l'istruzione, sparato un po' troppo presto col mitra, m'hanno schiaffato in prigione per 2 giorni. L'addetto al menaggio delle mani a suon di pugni m'ha slogato una mascella, facendomi svenire 2 volte, altro che il campione di box Joe Lewis. Sentissi che dure erano quelle manacce. I nostri superiori sono quasi tutti della SS tedesca, cattivi e ignoranti, che quando ti possono fare del male, vedi che ci trovano gusto. Dopo la guerra, a Berlino esistevano, in Germania, non solo a Berlino, veri e propri uffici per l'arruolamento. Il 12 novembre del 52 il sottosegretario appunto agli esteri Paolo Emilio Taviani risponde al Senato a un'interrogazione di Umberto Terracini, senatore comunista, quello della Costituente, che fa presente che interroga appunto Taviani, il governo risponde Taviani, e si basa su notizie di stampa l'interrogazione. Secondo la stampa ci sono almeno 4.000 gli italiani in Indocina con la legione straniera. In quanto ai paracadutisti, ormai ho fatto la domanda e non posso tirarmi indietro. Terminata l'istruzione, che dura 2 mesi circa, sarò spedito a Setif, dove farò il corso, e dopo andrò a lasciare la pelle in Indocina. Tu mi dici che a casa tutti stanno bene? Non puoi immaginare quanto lo desidererei, ma temo tu l'abbia fatto per non impressionarmi. Anche mamma sta bene? Ha saputo sopportare questo nuovo e duro colpo che le ho dato senza conseguenze? Ti prego di rispondere a questi punti interrogativi. Non spedirmi pacchi, non voglio essere messo in vista. Voglio lavorare al buio. E di al console che nella maniera più assoluta non si faccia vivo alla legione. Fa i più sinceri auguri a Ciccio per gli esami. Chissà come ci darà dentro e quanto tempo gli avrò fatto perdere con questa storia. Chiedo inoltre scusa ai fratelli e sorelle per quello che ho portato loro via. Ne sono proprio umiliato. Vi volevamo tutti quanti bene, da quanto ho capito, soprattutto mia sorella Mariella, a parte Ciccio, eccetera, che era molto legata a Mariella, lui, ma arrabbiati proprio, credo di no. Chiedeva scusa pensando a ciò che aveva procurato, ecco, ma non perché noi fossimo arrabbiati, che gli avessimo manifestato qualcosa per lettere, assolutamente no. Forse qualcuno gli avrà scritto anche, ma perché l'hai fatto, ma non con una forma, non lo so, ma non ho mai sentito una forma così di biasimo o qualcosa in fronte di Tony. Io mi ricordo che era molto amato da tutti, perché era molto, tipo, molto generoso, molto estroverso, molto... Un forte abbraccio a tutti, te e mamma, tuo figlio Tony. Ho ricevuto ora la lettera della mamma di Paolo, non so perché non scriva, so solo che lui è capitato in una caserma molto meno rigorosa della mia e più moderna. La città non me la ricordo più, ma di a mamma sua che non si preoccupi. Grazie ancora a Mauro Pescio che raccoglie e racconta questa storia. Vi ricordo che potete riascoltarla in fila, in 5 file, in un'unica sessione, in un unico gruppetto sul nostro sito lineedombra@radio24.it. Grazie anche ad Anita Panizza, a Luca Micheli e a Paolo Corleoni. Ora la linea va al GR e noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it